AVS Media Demo. AVS Media Demo. Meglio non pensarci di notte quando dovrei dormire. Resto fermo nel mio letto, guardo l'avvenire, la mia fine. Il buio è qui che vuole parlare. Butta su di me parole poco chiare, meno male. AVS Media Demo. Fare, non rispondo conoscendo i miei guai, ma sai. Ora che mi chiedi chi sono, passo avanti, non capisco, perdono. Il perdono è proprio ciò che voglio evitare. È una scusa di chi ha fatto del male, di chi vede normale. AVS Media Demo. Io senta dolore. Come se fossi avvolto tra le fiamme, il calore sì, è così forte. Io perdonerò, sono sul punto di morte. AVS Media Demo. Io non mi guardo indietro. Se sei così, io non ci vado indietro. Lascia ora queste mani. Non so chi sei. AVS Media Demo. La morte è proprio ciò che devo affrontare. Ricordando le persone più care che senza avvisare sono andate in quei posti oltre il mare. E in un attimo hanno imparato a volare. Il dolore AVS Media Demo. Vuota, sì. Quanto dolore c'è che butto dalla cima di un tetto. E mentre penso finalmente è finita, la ritrovo ogni notte sulla soglia del letto. È un dispetto. Questa scatola non vuole morire. Questa scatola per me prova amore. All'amore. AVS Media Demo. A capire un film di Kubrick da guardare e riguardare. Patire per comprendere. A volte è meglio lasciare perdere. A volte è meglio lasciarmi perdere. Senza cercare spiegazioni. Sono troppo pigro per ascoltare le lezioni di chi canta. AVS Media Demo. L'essenza della vita che è l'amore. Camminare insieme su una riga. Per me una riga parallela. Se a volte è meglio non vederci ma pensarci. A volte è meglio desiderarsi senza toccarsi. Senza provare l'inquietudine. Che tutto ciò diventi AVS Media Demo. Ciò diventi solitudine. Staremo insieme per sempre. La nostra sorte, sai. L'unica cosa sicura è proprio la morte. Se fai così, io non mi guardo indietro. AVS Media Demo. Io non ci vado indietro. Lascia ora queste mani. Non so chi sei. Ho sbagliato AVS a pensare Media che la vita Demo. Fosse liscia dritta. E ho imparato che in fondo ad ogni cosa c'è la parola fine come scritta. Col foglio bianco che sono abituato a vivere senza fretta di decidere e riflettere. AVS Media sono stato Demo. In tanti posti con l'aiuto delle lettere. Le strade dell'America sono troppe, ma girando con la mente ho seduto nel locale di Hopper con la penna intitolata ogni mia notte, cercando di trovare la pazienza di resistere alle botte AVS Media che la vita Demo. Dà come questo buio che non se ne va. Eccolo di nuovo che mi chiede chi sei. Io se lo sapessi giuro risponderei. Quindi non risponderò. Continua anche a chiederlo, io non risponderò. Adesso AVS Media Demo. Forse ci penserò. AVS Media Demo. Io non mi guardo indietro. Se sei così, io non ci vado indietro. Lascia ora queste mani. Non so chi sei. AVS Media Demo. Se fai così, io non mi guardo indietro. Lascia ora queste mani. Non so chi sei. AVS Media Demo.